Welcome administrator, medium is ready to check in. Ok, mentre voi vi facevate le seghe pensando a quando sarebbe arrivato Order and Chaos, io stavo a Miami e chiaramente ho avuto modo di comprarmelo direttamente da là. Oggi che sono ritornato me lo apro e andiamo a vedere insieme Order and Chaos. Allora, apriamo di Argus Security, che è l'ID principale che vedo già da adesso. Appena sbusto tutto quanto, certo che ci vuole veramente un corso di zen per rimanere calmi mentre sbusti sta roba. Dio, datemi un paio di forbici. Aiuto, non si sbusta più. Pensavo sarebbe stato più agile. Forbici. Ok. Apriamo insieme. E chiaramente la prima ID è Argus Security. Allora, questa identità è pensata per fare il classico tag and bag. È la prima volta, diciamo, una delle prime volte che leggiamo la parola tag in una carta Wayland. E questo perché, chiaramente, se avessero anche il tag and bag sarebbe, come dire, una sorta di archetipo interno solamente a Wayland. Invece, siccome NBN, diciamo, è quella delle tag e Wayland è quella che punisce se sei taggato, perlomeno c'è un po' di splashing. Ad ogni modo, l'identità è un'identità 4515. Ogni volta che il runner ruba un'agenda deve o prendere una tag oppure soffrire 2 mid damage. Ora, io considero questa identità un potenziale rimpiazzo nei mazzi super modernism. Questo perché effettivamente tassa il runner ma lo tassa solamente nel momento in cui minaccia, cioè c'è una minaccia vera e propria di capitalizzare il tagging, quindi Scorched Earth, vuoi anche magari closed account o cose di questo genere. Comunque in generale è una di quelle identità che non mi fanno impazzire. Probabilmente la proverò, ma non sono particolarmente emozionato. Gagarin Deep Space. Come costo addizionale per accedere ad una carta in un server remoto, il runner deve pagare 1. Ora, qui si stanno cercando di inventarsi, diciamo, delle alternative a come giocare Wayland. Questa è l'alternativa, diciamo, orizzontale, cioè creare tanti server in modo che si massimizzi il potere della carta. Anche questa non mi fa impazzire. Comunque 4515 per la cronaca. Titan Transactional. Oh, questa invece ci piace, cioè a me piace molto. Ogni volta che porti appunti un'agenda, che scori un'agenda, puoi piazzare un'agenda counter su di essa. Ora, se andiamo a guardare quali sono gli agenda counter, cioè quali sono le agende che usano o comunque che producono agenda counter, ce ne sono alcune proprio in Order and Chaos e molte altre invece sono neutrali. In realtà, secondo me, fare un mazzo in modo che quando scorri l'agenda c'hai un agenda counter in più non è particolarmente efficace. Non bisogna farci un mazzo intorno, per quanto mi riguarda. Secondo me è semplicemente completamente fuori di testa il fatto che la 3-2 di Wayland, adesso mi sfugge il nome, nel momento in cui la scori, quindi come la scorreresti normalmente, ma c'ha quel puntino counter che ti permette di andarti a prendere una carta che ti pare dal mazzo, il che vuol dire giocare molte carte in modalità 1x, perché tanto che te ne frega te le vai a prendere, oppure giocare in maniera molto più consistente il proprio mazzo, cioè quando ho bisogno di una carta me la porto a casa. Quindi, ecco, Project Atlas, non mi veniva l'agenda. Quindi, quando scorro Project Atlas, ho già quel puntarello in più che prima invece facevo fatica a mettere proprio in virtù del fatto che, insomma, l'avrei dovuta scorare direttamente, come se fosse una 3-2 o comunque in generale facendo passare un turno esposta. Invece, così con i Trick of Light, oppure con i Biotic, posso tranquillamente portarmi a casa l'agendina Project Atlas e minacciare di poter prendere la risposta giusta al momento giusto rispondendo in maniera versatile e in tempo reale al mazzo dell'avversario. Bravo, Titan Transnational non ci piace, Titan. Oh, firmware update, andiamo subito sulle agende. È una 3-1 che ti consente di mettere dei counter agenda, chiaramente, e quando usi l'abilità di firmware update, puoi mettere un avanzamento che avevi precedentemente messo in firmware update, ti mette tre agenda counter che si trasformano fondamentalmente in avanzamenti per gli ICE, ma ne puoi mettere uno per turno. Chiaramente, quindi, questo vuol dire che lo metti sia nel turno tuo sia nel turno dell'avversario. Quindi, fondamentalmente, nell'arco di pochi turni, se vuoi, li metti tutti. E, molto versatili, sicuramente in sinergia con scusate, con gli ice avanzabili, alcuni di quelli che già conosciamo, tipo Ice Wall, ma anche poi quelli che vedremo arrivare proprio su Order and Chaos. E Glen Station, uno dei primissimi spoiler di Order and Chaos, è una 4-2 che ha la possibilità di salvare un'agenda o cioè una carta qualsiasi su di essa, e quella carta fondamentalmente è inarrivabile per il runner. Voi immaginatevi un satellite che gira intorno alla Terra, che è completamente scollegato dalla rete, quindi non è possibile raggiungerlo perché chiaramente è nello spazio, e che quindi Wayland ci mette quello che vuole. Dal punto di vista tematico è geniale. Cosa ci metteresti su Glen Station? Io personalmente ci metterei Government Takeover. È la famigerata agenda 9-6, quindi 9 per scorarla e 6 punti agenda nel momento in cui la scori. Se riesci a scorarla, vabbè, la partita è molto vinta perché ogni click fai 3 soldi e sei a un punto dalla vittoria. Però fondamentalmente serve per abbassare l'agenda density e quindi per riuscire a giocare 6 agende in un mazzo da 49, che sono veramente poche, e darti quella sicurezza. È chiaro che quando te la pelano, però sei messo male. Io la metterei dentro Glen Station, se diciamo, cercando di seguire il tema suggerito da Order and Chaos. Poi in realtà probabilmente quando vedremo giocata Government Takeover non ci sarà Glen Station a corredare. Dal punto di vista del tema, Government Takeover è geniale, nel senso che l'immagine fa vedere questo militare che dà il fiore al bambino. E perché c'è questo militare con la parata in sfondo? Perché hanno fatto un takeover di un governo prima che diventasse pericoloso. Quindi è una sorta di guerra preventiva che, insomma, fa un po' ridere. E fa ridere nel senso che mette paura il concetto di guerra preventiva. Figuriamoci un takeover che può essere tradotto come colpo di Stato, nel caso dei governi, fare un colpo di Stato preventivo prima che quello stato diventi pericoloso. Infatti dice: "It's essential to liberate the populace from tyranny before that tyranny takes root", prima che prenda piede, che metta radici. Oh, poi un'ulteriore agenda, High Risk Investment, l'avevamo vista già negli spoiler, una 5-3 molto onesta, nel senso che comunque ti permette di, spendendo un click e l'agenda counter che ottiene nel momento in cui viene scorata, spendi un click e ottieni i soldi del runner, non nel senso che glieli togli, ma ottieni tanti soldi quanti quelli che ha il runner nel momento in cui spendi il click. Attenzione a eventuali giochini da parte del runner, tipo, che ne so, all'inizio del tuo... No, beh, però siccome l'hai priorità tu, fai il click no, e prendi i suoi soldi. Il runner non può fare dei trick particolari per cui si va a zero soldi in risposta. Se fai il click è perché è il tuo turno, e il tuo turno vuol dire che fa sì che sia sicuramente possibile per te decidere di avere l'effetto del high risk investment prima che il runner possa fare qualsiasi altro effetto. A me piace, è una di quelle agende che dice benissimo, la race sui soldi per evitare il sea source scorched l'hai già persa. Nel momento in cui provi a evitare gli scorched perché fai la race sui soldi, se ti scoro questa agenda qui sei fuori dai giochi, perché in qualsiasi momento io posso dire click, faccio i tuoi soldi e poi dopo ne parliamo. Comunque, Constellation Protocol, il primo asset di Wayland. Quando il tuo turno inizia puoi muovere un avanzamento da un ICE installato a un altro ICE installato, in linea perfetta con tutti gli ICE che vogliono gli avanzamenti tipici di Wayland. 0-4, 0 da rezzare, 4 da trasciare è un'ottima ratio, non so se troverà spazio all'interno delle carte. Questa a me sembra un po', come dire, la carta da giocatore che vuole fare la combo con le nuove carte e quindi ci metti quella, ma dopo un po' probabilmente vedrai che non funziona. Oh, altro discorso invece per Mark Yale. Mark Yale dice è un asset unico perché è una persona, costa 1 da rezzare, 3 da tresciare, e in qualsiasi momento spendi un'agenda counter ottieni un credito. Quindi è un'abilità passiva che aspetta che tu spenda degli agenda counter per ottenere un credito. La cosa bella è che ha un'ulteriore abilità che è o trascia oppure spendi un qualsiasi agenda counter e ottieni due crediti. Quindi facciamo l'esempio. Ho il firmware updates con 3 agenda counter sopra. Se li spendo tutti quanti... Ah no, scusate, facciamo che io ho il firmware updates con 4 agenda counter sopra perché sto usando Titan Transnational che mi ha permesso di metterne uno addizionale. Nel momento in cui li spendo tutti quanti per ottenere 2, siccome ho speso un agenda counter ottengo ulteriore 1, quindi spendo 4 agenda counter e ottengo 12 crediti. Direi che se volevano affermare in maniera definitiva che Wayland fosse la corporazione dei soldi, con questo Mark Yale lo hanno ben evidenziato. Oh, poi una delle mie carte preferite è un asset di tipo ambush, si chiama Space Camp, è una citazione a un tipo di campi scuola che venivano fatti in America, che si chiamavano proprio Space Camp, ed erano dei campi scuola a tema spaziale. Nel periodo in cui gli Stati Uniti volevano fare la colonizzazione, diciamo, dello spazio, ma comunque l'esplorazione dello spazio, sono stati fatti questi Space Camp e hanno ripreso questa cosa qua, e la cosa bella è che il tema è, cioè, carino, nel senso che, vabbè, 0 da rezzare, 3 da trasciare, ma nel momento... Se viene fatto l'accesso a Space Camp, il Wayland può mettere un avanzamento su una carta che può essere avanzata. Ora, immaginatevi che cosa vuol dire dal punto di vista del tema. Il runner super incazzato che vuole svelare quello che fanno le corporazioni. Ah, ho trovato questo file eccellente, adesso lo apro e rivelerò che cosa avete fatto. Ma noi veramente stiamo organizzando dei campi solari per bambini a tema spaziale? Ah, ok, il runner viene distratto e dà la possibilità a Wayland di avanzare le sue malefatte. Bene, altra carta molto interessante, 5 di influenza, quindi insomma, una carta che sappiamo che rappresenta un po' lo spirito di Wayland, che è The Board. È un asset, costa 3 da rezzare, è un tipo di asset esecutivo, è unica, costa 7 da trasciare, ogni agenda, è un'abilità passiva, ogni agenda nella score area del runner vale un punto in meno. Cosa vuol dire? Che se il runner sta vincendo perché ha 6 punti, 6 agende scorate tutte da un punto, io giro the board e il runner è a 0 punti. Ok? Quindi già sta cominciando a suggerire un certo tipo di mazzo. Chiaramente, come tutti gli esecutivi delle altre corporazioni, anche questo, se viene trasciato quando viene fatto l'accesso a questa carta, il runner lo può mettere a punti nella sua score area, quindi nella sua area di punteggio, e gli vale ben 2 punti. Direi che per ora è il migliore se comparato con gli esecutivi di Jinteki e di Asbyroid. Probabilmente questo vedrà qualche... vedrà, secondo me vedrà gioco, non lo so, però potrebbe configurarsi magari con le carte future un mazzo tempesta di agende da uno che però gioca anche the board e mette in difficoltà il runner. Vediamo. Sicuramente comba con Argus Security, cioè Argus Security tutte le volte che il runner ruba un'agenda prende un tag, quindi chiaramente tendenzialmente Argus Security tenderà a volere parecchie agende nel mazzo e poco costose anche con pochi punti. Chiaramente il rischio che mi prendo nel farti scorrere queste agende viene molto calmierato dalla presenza di the board. Passiamo al lato ice. Allora, sul lato ice abbiamo un sacco di roba avanzabile, ma quattro tipologie di ice particolari che chiameremo ice spaziali, ok? Il primo di cui vi parlo è Asteroid Belt. Può essere avanzato, costa 9, 6 come forza, quindi una bella barrierona da 6, e ha un classico end run. Ora, come razio, 9 per 6 di barriera e end run non sarebbe un granché. Il fatto è che se però noi lo avanziamo, per ogni avanzamento che c'è su, mi costa 1 in meno. Attenzione che questa è un'abilità, è un'abilità passiva, quindi fin tanto che ha 3 avanzamenti su di esso, quello costa sempre 0. Cosa vuol dire? Che se per caso mi fai un power shutdown, io poi te lo rirezzo sempre a 0. Sono veramente solidi. Poi, un altro discorso è se poi quegli avanzamenti li sposto in qualche modo, come abbiamo visto con delle agende, con i vari Trick of Light che mi permettono di fare il Fast Advance e con altre carte che stiamo per vedere. Wormhole, sempre della serie degli ice spaziali, che sarebbe buco nero, è un Code Gate, mi sembra molto azzeccato come tipologia, visto che molti fisici ipotizzano che il wormhole possa essere un passaggio spazio-temporale, anche se ho dei dubbi su questa teoria, proprio faccio fatica a concepirla, però vabbè, non ho la matematica per supportare questa mia mancanza di fede. Ad ogni modo, Wormhole può essere avanzato, costa 3 in meno per ogni avanzamento sopra di esso, costa 9, forza 7, e ha un'abilità molto particolare, cioè è una subroutine che dice risolvi una subroutine su un altro ice rezzato. Molto condizionale, sappiamo che i Code Gate sono, come dire, gli ice che fanno delle cose strambe, questo sicuramente ne fa una particolare che non avevamo ancora visto. Nebula, anche questo costa 9, ma il costo è abbassato dagli avanzamenti, è forza 5 sentry che trasha un programma, quindi insomma in un certo senso questi ice rappresentano gli archetipi di quello che fanno le tipologie di ice. Nebula è una sentry, trasha un programma, Wormhole è un code gate, fa una roba stramba, Asteroid Belt è solido perché è una barrier e fa il land run. Chiaramente stanno urlano una certa tipologia di mazzo, cioè urlano a chiare voci il fatto che devi essere in grado di avanzare questi ice per pagarli poco. Stai sacrificando in un certo senso un early access per un mid game molto solido. Orion è unico, quindi se lo rezzi poi gli altri ti trashano insomma ti si auto trashano nel momento in cui li rezzi o ti trashano quello già rezzato. Ad ogni modo è unico, anche lui può essere avanzato, ma in questo caso costa 15, quindi se guardiamo ai moltiplicatori, mentre prima mi ci volevano 3 avanzamenti, adesso me ne vogliono 5 per riuscire a portarlo a costo di rez 0. È un ice particolare perché è sia una sentry che un code gate che una barrier, costa 8 di forza, scusate non costa 8, costa 15 ma a forza 8, però include tutta una serie di subroutine che abbiamo visto nelle altre, quindi trash one program, resolve subroutine on another piece of ice e end run, quindi diciamo è la summa, il riassunto degli altri 3. Poi abbiamo il servitore di questi ice che si chiama Builder, è un code gate a forza 4, costa 2, se spendi un click lo sposti in cima ad una pila di ice e le due subroutine che ha sono metti un avanzamento su un ice che sta proteggendo questo server che può essere avanzato. Secondo me non vedrà tanto gioco, però insomma segue la linea degli ice avanzabili tipica di Wayland. Checkpoint poi è un code gate illicit e già quindi ci dice che prenderemo una bad publicity quando lo rezziamo, ed è anche un tracer, quindi questo ci dice anche che probabilmente ci sarà una trace. Infatti la subroutine dice trace 5, se ha successo fai 3 danni quando questa run ha successo. Le solite cose alla code gate, sì è vero non ti faccio end run ma in un certo senso te lo faccio, tipo chum non ti faccio end run però forse è meglio che non vada avanti, quindi fai un check out, ed è esattamente quello che succede con checkpoint, cioè vedo checkpoint e probabilmente farò un check out se non voglio beccarmi sti tre meat damage, oppure vabbè devo superare comunque la trace. Io non lo romperei un ice così, perché comunque insomma code gate a forza 7 è impegnativo da rompere. Firewall, il fratello grande di ice wall ma meno interessante a mio parere. Firewall può essere avanzato e ottiene uno di forza per ogni avanzamento su di esso e fa un simpatico end run, costa 5 e ha 5 di forza. Plain and simple, come si direbbe, cioè molto semplice. Non lo so, io non lo giocherei, cioè piuttosto giocherei un Hive, non lo so. Sì, probabilmente non credo che verrà tanto giocato. Searchlight, ecco, questo è l'ice che per quanto mi riguarda è l'MVP di questa Order and Chaos, cioè l'ice che secondo me vedrà più gioco in assoluto. Searchlight può essere avanzato, X è il numero di avanzamenti che sono presenti in Searchlight e ha due subroutine, trace X, quindi la trace è pari al numero di avanzamenti che ci sono su Searchlight, se ha successo dai al runner una tag. Un'altra carta che dà tag, Wayland particolare, l'abbiamo vista solamente in quell'altro ice avanzabile di cui volontariamente non voglio ricordare il nome, e costa 1 da rezzare ed è un sentry a forza 3, quindi insomma è una signora sentry. Voi immaginatevi un hunter che però invece di avere una subroutine ne ha 2. È chiaro che insomma la trace parte da 0, poi se ci metti degli avanzamenti la rendi un po' più interessante come trace, ma fondamentalmente la trace in generale è una gara di soldi. Siccome Wayland di soldi di solito ce n'ha veramente tanti, diamo un senso a questo ice, cioè nel momento in cui io te lo rezzo, se ti becchi 2 tag è palloso togliersi 2 tag, quindi tu comunque La Trace cercherai o di superarla pagando oppure di romperlo. Però anche romperlo, se entri a costo 3 con due Sabrutin, insomma, non ce ne sono tanti di Icebreaker killer che ti fanno pagare poco la rottura di una Sentry a costo 3 con due Sabrutin. Insomma, secondo me vedrà gioco soprattutto per il costo, diciamo, molto basso, 1 per rezzarlo, e il suo effetto, che comunque è fastidioso. Chiaro, è poroso, però fastidioso. Poroso ma fastidioso, ecco, questa è la definizione. Arriviamo poi alle Operation, e la prima che incontriamo è una Current Grey Ops. Si chiama Housekeeping, probabilmente una delle current più forti che ci sono nel formato. E questa carta, vabbè, non è trashata fino a che non ha un'altra current è giocata oppure un'agenda viene rubata. Ma la cosa bella è che dice: la prima volta che il runner installa una carta ogni turno, deve trashare una carta dal suo grip, quindi dalla sua mano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Andromeda si ritrova a dover trashare una carta ad inizio turno, che non è male, perché Andromeda installa molto. Noise pure si ritrova che, se per caso vuole fare, come dire, un po' tutto durante il suo turno, probabilmente verrà molto penalizzato. Cioè, se vuole fare installo Ice, ranno, pesco carta, faccio qualcosina, e verrà molto penalizzato. Noise si ritroverà a fare dei turni in cui fa installo, installo, installo, installo, installo, in modo che minimizza la perdita di carte, perché comunque gli fa trasciare una carta sola, anche se fa 4 installazioni, ma non potrà mai, cioè, a sue spese dovrà fare installo, ranno, pesco, perché vuol dire che ogni turno dovrà trasciare una carta tutte le volte che installa. A me piace, è una di quelle current che giocherei. Patch è un operation condition, installa patch su un ice rezzato e quello prende più 2 strength. È carina, cioè da un più 2 ad un ice, non verrà giocata, però è carina. Traffic accident, anche questa secondo me non verrà giocata, costa 0. La giochi solo se il runner ha almeno 2 tag. Questa è una di quelle condizioni sulle quali non hai il controllo, oppure che ci devi comunque costruire un mazzo intorno, e per l'effetto che fa, ovvero fai 2 meat damage, non mi convince. Satellite grid upgrade region, quindi non la potrete giocare insieme ad altre regioni. Costa 1, 3 da trashare, una buona ratio. Ogni ice che protegge questo server si considera come se avesse un avanzamento addizionale su di esso. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente questo satellite grid è una sorta di sorpresa, una specie di non so come definirlo, una sorpresa. Cioè, avevi fatto tutti i tuoi conti su quanto ti costava entrare in quel server, e pensavi che ci fosse, che ne so, un hash più un'agenda, e invece c'è Satellite Grid che ti sballa un pochettino i conti, perché magari ti mette una sabrutina in più in un ice, o ti alza di forza un ice, oppure mi consente di rezzare un ice che avevi fatto i conti che non sarei riuscito a rezzare, perché c'ha un avanzamento in più. Insomma, mi piace il giusto, io non lo vedremo giocato, secondo me. Invece un upgrade che vedremo giocato è sicuramente The Twins. Allora, The Twins è un upgrade di tipo Seasop, e questo già ci dice che è un upgrade unico, cioè non potremo avere 2 carte The Twins installate e rezzate contemporaneamente. Costa 2 da rezzare e 2 da trashare, e vi faccio presente che probabilmente questi costi non sono stati messi per il playtest, ma semplicemente perché The Twins vuol dire i gemelli, e quindi hanno voluto fare questa sorta di coerenza con il nome, mettendo 2 di costo e 2 di trash. Comunque, cosa fa The Twins? Quando il runner passa un ice rezzato, che protegge chiaramente il server dove ci sono presenti The Twins, puoi rivelare dalla tua mano e trashare un'altra copia di quell'ice dall'HQ, per forzare il runner a incontrare nuovamente il tipo di ice che ha appena passato. Allora, questa carta urla Koma Inu, fondamentalmente. Cioè, ho appena superato Koma Inu, non so come, scartando le carte, pagando per tutte le sub routine delle carte. Io mi scarto un ulteriore Koma Inu che avevo in mano e in questa maniera ti obbligo a rincontrare Koma Inu. Che cosa vuol dire rincontrare Koma Inu? Siccome Koma Inu prende delle sub routine pari alle carte che hai in mano, che dicono fai un net damage, all'inizio dell'incontro e fino alla fine della run, siccome io ti forzo a rincontrare Koma Inu, lui già aveva delle sub routine, ma in più ne becca ulteriori pari di nuovo alle carte che hai in mano. Quindi se ti ho fatto scartare tutte le carte con Koma Inu, quello ha ancora le sub routine di prima e tutte le devi ripassare, quindi dovrai rompere appena il flatline. Se invece hai rotto tutte le sub routine di Koma Inu, quindi hai ancora per esempio 5 carte in mano, lui si ribecca ulteriori 5 sub routine e quindi da 5 più 5 10, quindi ha 10 sub routine che dicono fai un net damage. Insomma, caro ti costa superare sto benedetto Koma Inu. Questa carta secondo me verrà molto giocata in Jinteki, per il semplice fatto che costa 1 di influenza, mentre Koma Inu costa mi pare 5 di influenza, quindi con molta probabilità sarà splashata The Twins piuttosto che Koma Inu. Vedremo se Jinteki avrà l'ardore di giocare queste donne gemelle. Ah, un'ultima cosa su The Twins. Fondamentalmente è molto bella come carta, ma la cosa più bella in assoluto è la quote che c'è sotto, cioè il flavor text. Anything worth doing is worth doing twice. Vi faccio presente che questa stessa quote, questo stesso flavor text è presente anche in Deja Vu. Potrei sbagliarmi, ma vado a memoria. Direi che è presente anche in Deja Vu. Quindi, siccome dice qualsiasi cosa che sia utile, no utile, diciamo che abbia senso fare, è giusto farla due volte, chiaramente hanno fatto due quote identiche, cioè questa è la seconda volta che questa frase compare su Netrunner. Secondo me dei geni. Comunque, le carte Wayland sono finite, passiamo alle carte neutrali, che sono Subboost. Trasforma è un operation condition, quindi diventa un host dell'ice, un po' come Oversight AI, e dice l'host ice, cioè l'ice che viene sul quale subboost viene ostato, ottiene una subroutine in più dopo tutte le sue subroutine, che è end run, e ottiene anche però il grado di barriera. Quindi fondamentalmente, insomma, cioè se ottenesse End Run e basta, senza ottenere il grado, cioè il tipo di barriera, mi sarebbe piaciuta, perché comunque una sabrutina in più che dà un End Run a magari quegli ice porosi tipici di mazzi, che ne so, mazzi MBN o Jinteki, ecco, sicuramente poteva aver senso per fermare. Però siccome te la trasforma poi in barriera, insomma, barriera è la più facile da rompere perché esiste Corroder, non mi convince. Costo 1, Dedicated Technician Team, 1 da trashare, 2 crediti ricorrenti, usa questi crediti per installare ice che proteggano questo server. Non verrà giocata, fa abbastanza cagare, va bene. Cyberdex Virus Suit, se questa carta viene acceduta dall'R&D, deve essere rivelata. Quando si ha accesso a questa carta, la Corp può fare il purge dei virus. Quindi fondamentalmente è una sorta di ambush, infatti costa 3 trasciare 1, ma è un upgrade ambush. E insomma purga i virus quando accedi, quindi insomma io accedo a questa carta e è molto specifica contro i virus. Inoltre se viene trashato quando è rezzata, ulteriormente purga i virus. Se Noise Mill diventa veramente palloso giocarci contro, forse potrebbe aver senso vederla giocata come forma di tutela. Altrimenti, bah, insomma, come non si giocava CyberDex Virus Trial, probabilmente non si giocherà nemmeno la suite. E con questo concludiamo la parte corp e vi do appuntamento alla prossima puntata, nella quale parlerò della parte Anarch, quindi della parte del runner. Devo dire che probabilmente la prossima puntata sarà quella esplosiva. Questa è stata un pochettino nella norma, cioè non abbiamo visto delle carte eccezionali o completamente devianti l'attuale meta. Sicuramente Wayland si rinforza, ma non ho visto niente di nemmeno lontanamente comparabile alla nuova identità di Wayland Blue Sun. Ci sono delle belle carte che vedranno gioco. Ma non c'è nulla che trasformi l'archetipo Wayland e aggiunga magari, che ne so, una tipologia di mazzo Wayland. Al contrario, vedremo che nella prossima puntata, nella quale parlerò delle carte del runner, gli Anarch si beccano della bella robazza. E lo sapete già perché siete tutti quanti completamente dipendenti dagli spoiler e probabilmente state già giocando su Octagon con le carte di Order and Chaos, quindi lo sapete di cosa sto parlando. Vediamo una a una che cosa ne viene fuori. Alla prossima. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.